Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. Vi anticipo subito che, come già ricordato dal nostro GR, alle 18 dopo il GR vi sarà uno speciale di un'ora dedicato alle dimissioni a sorpresa del Papa, e ci sembra importante chiaramente fare anche il punto in un'ora di massimo ascolto, speciale che andrà in onda appunto dalle 18 fino alle 19. Noi invece, come sempre, racconteremo la cronaca di questa giornata economico-finanziaria che vede, da un lato, le borse essere leggermente deboli, la peggiore Milano meno 0,47%, in realtà Parigi più 0,11%, Francoforte meno 0,17%, Londra invariata, euro su dollaro a quota 1,34,15, di euro ma anche di Cipro si discute l'Eurogruppo di oggi a Bruxelles. Dopo la posizione di Mario Draghi la settimana scorsa, che ha detto, insomma, vigileremo, forza un po' l'analisi, affinché l'euro non diventi un elemento di instabilità per quello che è il tentativo di recupero dell'area euro come recupero economico. Instabilità vuol dire che se l'euro è troppo forte, l'inflazione, in questo caso Draghi non è preoccupato dell'export, non rientra nel suo mandato, ma il riferimento su cui può entrare invece è l'inflazione. Siccome l'inflazione è troppo bassa, non va bene tanto quanto l'inflazione è troppo alta. È chiaro che un euro molto forte riduce moltissimo l'inflazione, ma in questo caso la potrebbe ridurre troppo, perché si paga meno il petrolio e tutti i generi e tutte le materie prime importate. L'effetto delle parole di Draghi è stato abbastanza visibile. Oggi l'euro a quota 1,34, perlomeno non ha continuato a crescere. Dicevo, parleremo di questo, ma anche dell'allarme lanciato dal mondo del commercio. Perché? Perché oggi hanno fatto il bilancio dell'andamento dei saldi, lo ha fatto Federmoda Italia per Confcommercio. Insomma, c'è un calo molto forte, meno 9% nei saldi rispetto all'anno prima, e la Confesercenti stima nel 2012-2013 un tracollo dei consumi di quasi 45 miliardi, nel senso che l'anno scorso la spesa delle famiglie ha fatto un meno 4%, che vuol dire 35 miliardi. Quest'anno si ipotizza che possa fare un altro meno 1,5%, sono altri 10 miliardi. Ecco come si arriva alla cifra di 45 miliardi. Ancora parleremo poi, dicevo, di borsa. Bene oggi la Popolare di Milano più 4,60%, A2A più 3,40%, Popolare Emilia Romagna più 2,50% come Mediobanca, Mediolanum più 1,60%, Exor più 0,80%, Banco Popolare più 0,50%, Telecom Italia meno 3,20%, Monte dei Paschi meno 2,30%, come Diasorin il 2% lo perde Fiat, l'1,40% lo perde Saipem, l'1,1% sia Unicredit che Autogrill che Tenaris, 1% lo perde Atlantia, Intesa San Paolo e anche Tods, meno 1%, UbiBanca meno 0,94%. Ancora, per quello che riguarda i temi, dicevo, politiche europee, andamento dei consumi e le altre notizie in breve, invece, le raccontiamo come sempre in apertura del programma, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e che poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Buona notizia arriva stranamente dalla Grecia, nel senso che le finanze greche a gennaio avrebbero avuto un surplus, quindi un attivo, di 165 milioni di euro contro quasi mezzo miliardo di deficit nel gennaio del 2012. Lo ha riferito il vice ministro delle finanze Christos Stoikouras, aggiungendo però che per quanto il bilancio di gennaio sia positivo, non c'è spazio per alleggerire l'austerità. L'attivo è stato raggiunto grazie ai pesanti tagli operati, mentre le entrate si sono attestate a 4 miliardi e 400 milioni di euro. Arriveremo anche al vertice del gruppo e al salvataggio di Cipro. Cipro infatti è messa come la scusatemi, come la Grecia, se non peggio. C'è una proposta che oggi riporta il Financial Times di far pagare buona parte dei costi ai privati che siano titolari di depositi bancari nell'isola o creditori. Però la proposta è stata bocciata dal portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn, il quale ha detto da parte della Commissione europea non esistono proposte per attingere ai depositi bancari di Cipro. Sarebbe un precedente non da poco. E l'esponente tedesco del board del consiglio della Banca Centrale Europea, Jörg Asmussen, ha detto che il piano di aiuti a Cipro sarà pronto entro fine marzo. Veniamo all'Italia. Chiaramente, al di là della notizia sul Papa, fa molto discutere la dichiarazione di Silvio Berlusconi sullo spread. Allora, oggi lo spread, quindi quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi alla Germania, questa differenza si chiama spread, è in leggero rialzo a 297 punti. Berlusconi questa mattina ha detto non ce ne può importare di meno, perché gli italiani non devono preoccuparsi dello spread, perché la differenza tra quello che deve pagare la Banca d'Italia sui titoli di prima emissione e quello che paga la banca tedesca, e non ce ne può importare di meno. Quello che deve importare è l'interesse che lo Stato deve pagare sui titoli in emissione, che è al 4,30, qualcosa del genere, sarà con uno spread. Perché lo spread è la differenza tra quello che deve pagare la Banca d'Italia sui titoli di nuova emissione e quello che paga la Bundesbank sui titoli tedeschi. E non ce ne può importare di meno. Lo spread è qualcosa che nessuno... Non è proprio così. Se ci sono 5 punti di distanza, costa di più il denaro anche per le nostre imprese, e quindi non si può andare a lungo in una situazione del genere. Ma non a questi livelli qua. Allora, vediamo di chiarirci. È chiaro, è vero che a 200, dunque, fino a giugno del 2011 lo spread italiano stava a 180-200 punti ed era fisso così dall'inizio della crisi. Quindi è vero che a un livello di differenza del 2%, 200 punti, la situazione è assolutamente accettabile. La Francia ce l'ha a 120-140 rispetto alla Germania. Lo ammette però lo stesso Berlusconi, che quando la differenza dovesse essere notevole, cioè noi arrivammo a 570 punti quando poi si dimise Berlusconi, allora il 5,7% di differenza sul rendimento si ritiene che porta i BTP a rendere oltre il 7%. Allora, onestamente, qualunque analista ed economista vi dirà che un BTP che rende più del 7% diventa insostenibile nel medio lungo termine. Cioè, tu non è che tutto il tuo debito devi pagarlo al 7%, le nuove emissioni lo devi fare. Quindi, se è per un periodo breve hai un esborso, ma ancora ce la fai, se è per un periodo lungo non riesci a reggere. Faccio notare che il rialzo dello spread sia a novembre che poi a maggio è costato, secondo la Banca d'Italia, circa 3 miliardi di euro di spese in più per interessi. Per cui è vero che uno spread a 290 fa poca differenza con 270-260, è vero anche però che quando supera il livello di guardia diventa una miccia, ossia o tu disinneschi la bomba o l'orologeria, o se no tu a un certo momento non riesci più a pagare il tuo debito a quei tassi di rendimento, perché un paese che non cresce è come se tu avessi un prestito fatto al 7% e il vostro stipendio restasse invariato, cioè il giro d'affari che tu produci resta invariato. È chiaro che non ce la fai a starci dietro. Ultima cosa, dimentica Berlusconi che il problema a novembre del 2011 non fu solo lo spread a 570 punti, quindi rendimenti sopra il 7%, fu il fatto che i rendimenti del BTP a 10 anni, cioè la scadenza a 10 anni del nostro debito, erano più bassi di quelli a un anno o a 3 anni, cioè la curva si era invertita. Di solito in una situazione normale è chiaro che rende di più qualcosa che scade più in là. Perché? Perché io ti chiedo più garanzie, non so dove sarai fra 10 anni e quindi ti chiedo più garanzie, e invece un rendimento di un titolo a un anno, 2 anni o 3 anni deve rendere di meno. La situazione era così compromessa a novembre del 2011 che, diciamo, non si andava nemmeno a valutare quello che sarebbe stata l'affidabilità dell'Italia fra 10 anni, si andava subito a scommettere e quindi aumentare il rischio sull'Italia a 1-2 anni, con la conseguenza appunto che i BTP a 3 anni rendevano più di quelli a 10, che è un'anomalia, segnale di una profonda, profonda incertezza sul paese. Parliamo però anche del Forex, lo faremo fra un attimo. Vorrei intanto però finire con le altre notizie, perché ci sono un paio di notizie che riguardano sprechi vari e quindi per riparte il nostro Rino Gaetano, e poi parleremo invece anche delle varie dichiarazioni che la nostra Deborah Rosciani ha raccolto tra sabato e domenica al Forex, e quindi l'appuntamento per gli operatori della finanza che si è tenuto quest'anno a Bergamo. Abbassare, potrebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, potrebbe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, potrebbe più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, potrebbe più. Allora, è una... così, è un gran gugnolo, è un museo degli orrori, quello... il dossier messo a punto dalla Procura Generale della Corte dei Conti sugli sprechi e le frodi nel 2012. Secondo la Corte dei Conti, il danno di questi sprechi e frodi, in base a un calcolo provvisorio, sarebbe di 300 milioni di euro, immagino per difetto. Ci sono dei casi incredibili, anche perché delle volte si tratta di sprechi apparentemente minori e che messi tutti assieme poi portano la cifra di 300 milioni di euro. Il ponte di Calatrava a Venezia, qualcuno ricorderà una discussione molto forte che avevamo con l'ex sindaco Cacciari proprio in questo programma. Insomma, il ponte di Calatrava è costato, come costi aggiuntivi ai comuni, 3 milioni e 400 mila euro in più per errori di progettazione, e ne parlammo con Cacciari, mancava la carrozzina per i disabili, ma anche per cause legate allo scivolamento durante l'attraversamento. Più di un veneziano, un turista si ruppe o ebbe incidenti. Aver messo mano agli errori di progettazione, qui non parliamo di sprechi in senso stretto, è costato 3 milioni e 400 mila euro. A Firenze comunque ci sono stati 50 milioni di danni all'erario per errori imputabili a errori di gestione del personale. A Casalecchio di Surena, Bologna, 3 milioni e 300 mila euro di danno per un sovradimensionamento del palazzo dell'INAIL. A Trieste avevano progettato il museo dell'immagine, non è mai stato realizzato, ma è comunque costato 600 mila euro. E poi c'è un caso che a noi obiettivamente fa sorridere, perché la Corte dei Conti cita anche il caso di un maestro marchigiano che rubava le merendine destinate ai bambini di una scuola materna e se le portava a casa. Adesso io voglio dire, o veramente il maestro marchigiano vuole applicare in sedicesimi quello che legge sui giornali, ma una volta si diceva è come rubare le merendine a un bambino, ecco, c'è chi l'ha fatto. Ben più serio è il tema dei costi del nostro esercito, delle nostre forze armate. Già ci occupammo di quello che riguarda gli stipendi dei generali di corpo d'armata, di stato maggiore, di tutti i diritti che hanno, degli assistenti che hanno, insomma, degli uffici, una cosa, non ci voglio tornare, ma che grida vendetta, fatemelo dire tranquillamente. Ma oggi insomma si scopre che il Tribunale Militare di Sorveglianza, che si occupa dei detenuti per reati militari, chiaramente, è composto da 3 magistrati e 15 dipendenti e ha un costo stimato di circa 1 milione 600 mila euro l'anno. Vabbè, è certo che... Sapete quanti sono i detenuti? Faccio un test. Quanti saranno i detenuti in questo momento in un ospedale di il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere? Beh, uno, un solo detenuto. Anzi, fino a poco tempo fa non c'era neanche lui nel carcere, le celle erano completamente vuote. Il personale si giustifica dicendo: ma ci sono anche due ai domiciliari. Ho capito, ma allora il carcere che serve? I detenuti militari sono ovviamente crollati con il venir meno della leva del servizio di Naja, della leva obbligatoria. Dalle 1500 sentenze di allora, perché chiaramente la leva obbligatoria raccoglieva, insomma, tutti gli strati della società, anche quelli meno puliti, a circa 200. Ecco, praticamente il numero di cause si è ridotto di un sesto, ma l'organico è rimasto identico. Per cui noi spendiamo 1.600.000 euro l'anno con tre magistrati e 15 dipendenti, con un solo detenuto e due ai domiciliari. Io non so, un po' di compassione anche per questo solo detenuto che ha a disposizione l'intero carcere. Sicuramente lì non c'è un problema di sovraffollamento. Con questa notizia, insomma, forse un po' di risparmio si può fare anche lì. 1.600.000 euro per un detenuto. Andiamo al Forex, dove la finanza, gli operatori di borsa, gli operatori dei mercati, con tutti i banchieri, con il governatore della Banca d'Italia Visco, si sono incontrati, e chiaramente il tema era anche la vigilanza della Banca d'Italia dopo quello che è successo al Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per gli sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. L'Italia non deve abbassare la guardia. L'attenzione degli investitori internazionali continua giustamente a concentrarsi sulla nostra capacità di preservare l'equilibrio dei conti pubblici e di perseguire con determinazione l'innalzamento del potenziale di sviluppo. Il riemergere periodico di tensioni ci ricorda la fragilità della situazione. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi resta al di sopra dei valori coerenti con le condizioni di fondo della nostra economia. La sua ulteriore riduzione potrà facilitare la raccolta delle banche e la ripresa dell'erogazione del credito all'economia a condizioni più vantaggiose. Quindi dice il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco: non abbassare la guardia. Continua sulla vicenda Monte dei Paschi, che è la cosa più forte, ma riascoltiamolo perché nel fine settimana il programma non c'è. E ha detto: va bene, volete che noi siamo ancora più incisivi? Dateci un rafforzamento delle norme per poter, sulla base di fondate evidenze, opporsi o addirittura rimuovere dall'incarico i vertici delle banche. I requisiti di onorabilità e professionalità sono fissati con normative rigide. La decadenza può essere dichiarata solo per difetto di criteri tassativamente elencati. Quando l'intermediario non è in situazione di crisi, la Banca d'Italia può chiedere agli azionisti di rinnovare l'intero vertice aziendale, ma non può incidere sulle loro decisioni né direttamente rimuovere un singolo amministratore. Il quadro normativo va rafforzato. L'autorità di vigilanza deve poter valutare compiutamente l'idoneità degli esponenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Deve poter intervenire efficacemente nei casi in cui, sulla base di fondate evidenze, ritenga necessario opporsi alla nomina di esponenti aziendali o rimuoverli dall'incarico. E quindi vuole più poteri la Banca d'Italia, addirittura arrivare, non ci sarebbe nulla di male secondo me, se devi vigilare su tutto, a rimuovere direttamente dall'incarico i vertici delle banche stesse però che sono azioniste della Banca d'Italia. Qui dovremmo una volta aprire anche un punto. Comunque è entrato nel dettaglio di questa proposta il direttore generale della Banca d'Italia, cioè il numero 2 della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, intervistato dalla nostra Deborah Rosciani durante il Forex. Vogliamo avere il potere prima di tutto di obiettare alla nomina di certi amministratori laddove ci siano fondati evidenze che la persona non è, come si dice, fit and proper in inglese, insomma, no? Cioè che non è adatta, il che non vuol dire che ci debba essere, come dire, una evidenza di reati o di cose di questo genere. poi di nuovo Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, che aggiunge: se la banca è in perdita non si possono dare i bonus ai manager. A me sembra un'ovvietà, però purtroppo non solo nel mondo bancario, abbiamo raccontato la vicenda fondiera Sai con Marchionni, ma anche in altri mondi, anche in altre società, abbiamo visto nel passato, anche recente, gruppi essere in perdita e manager avere bonus o liquidazioni milionarie, che obiettivamente non si capisce perché i dipendenti sono in esubero, c'è lo scivolo, ci sono gli esodati, c'è il prepensionamento, cioè tutte cose che comunque vanno a, diciamo, creare un danno economico. E invece quando il top manager se ne va lasciando magari un gruppo in difficoltà, becca pure, sarà tutto parte degli accordi, ma rivediamo anche questi accordi, becca pure liquidazioni e da milioni ogni tanto. Sentiamo Visco su questo. È necessario che la parte variabile delle remunerazioni delle figure aziendali fletta in linea con i risultati reddituali e salga quando i risultati reddituali sono positivi. Non dovranno in particolare distribuire bonus le aziende in perdita. I premi devono essere legati al conseguimento di risultati stabili, non dovuti semplicemente a eventi di natura straordinaria. Solo le componenti reddituali strutturali possono costituire il punto di riferimento nella definizione dei bonus e nella applicazione dei sistemi che ne prevedano, in alcuni casi, la restituzione. Anche i compensi pagati in caso di conclusione anticipata dei rapporti di lavoro devono essere legati in modo chiaro ed efficace ai risultati conseguiti. Sì, lo so che sembrano delle ovvietà dire che lo stipendio e anche i bonus, cioè la parte variabile dello stipendio, deve essere legata ai risultati conseguiti, però purtroppo non è quello a cui abbiamo assistito. Faccio notare che la Banca d'Italia ha dovuto bloccare la mega liquidazione che il direttore generale del Monte dei Paschi, attualmente indagato, Vigni, si era visto attribuire dalla banca. Non c'è solo Fondiera, sai. E comunque quando i consigli di amministrazione si danno... si aumentano, si danno i bonus partendo dall'amministratore delegato e poi i consiglieri, è chiaro che cane non mangia cane. Su questo, sul tema dei bonus e degli extra bonus, è intervenuto sempre al microfono della nostra Deborah Rosciani l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, che ha detto, insomma, ascoltiamo passaggio. Beh, certo, nel nostro sistema se non ci sono utili non si distribuiscono bonus. Beh, credo che nel 2012 si è fatto il possibile, vista la situazione in cui si è lavorato. Quindi non possiamo dimenticare che il 2012 è stato un anno difficilissimo e per di più si partiva da una situazione a fine 2011 drammatica. Quindi penso che il sistema italiano abbia risposto come doveva fare. Per il 2013 io penso che comunque ci sarà una situazione economica leggermente migliore. E quindi anche le banche e il credito dovrebbe fluire in misura più positiva rispetto al passato. Il governatore ha anche detto che l'Italia non deve abbassare la guardia. Cosa può fare il sistema bancario, appunto, affinché il clima si rassereni? Deve fare bene il proprio mestiere, quindi quello che cerchiamo di fare, ovvero sia creare condizioni di efficienza all'interno del sistema, all'interno delle singole banche. La struttura patrimoniale è già robusta. La liquidità, grazie anche al fatto i depositi in Italia, contrariamente alle aspettative catastrofiche di tanti un anno fa, e tornare a fare credito, anche se sarà ovviamente selettivo. E qui penso che anche la domanda, se l'economia si riprende, tornerà. Quindi. E poi il presidente del Monte dei Paschi, Alessandro Profumo, sempre con la nostra Deborah Rosciani, commentare la situazione della banca alla luce anche dell'intervento del governatore Visco. La ricerca invece di un socio finanziario forte, lei qualche giorno fa aveva detto di auspicarlo, dottor Viola giorni successivi invece ha detto chiaramente le condizioni di mercato non consentono operazioni di questo tipo. Siete stati cercati da qualcuno? Lei sta parlando con qualcuno? Io le consiglierei di rileggere un'intervista, perché poi alla fine ho parlato, credo, in modo molto chiaro sul Sole 24 Ore, ho detto esattamente le cose che dice Viola, nel senso che noi auspichiamo, abbiamo nell'orizzonte di piano da realizzare un aumento di capitale da un miliardo. Auspichiamo di avere degli azionisti o un azionista, non sappiamo quanti, che sottoscrivano questo aumento di capitale. Avevo anche detto nell'intervista del Sole 24 Ore che in questo momento è tecnicamente impossibile andare sul mercato, quindi non stiamo cercando... Siccome le novità di Monte dei Paschi ce ne sono giorno per giorno, così magari immaginavo che potessero esserci dialoghi in corso. Noi tendiamo ad essere piuttosto consistenti con le cose che diciamo, nel senso che diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. Mamma mia, mamma mia. Allora, tra l'altro mi sa che Alessandro Profumo sarà nostro ospite a breve. Quando stava in Unicredit, lo intervistiamo molte volte, gli avevano dato nel mondo della finanza un soprannome divertente, partendo dal suo cognome Profumo, il soprannome era Arrogance. Allora io dico, caro Profumo, ho capito che lei ha fatto un'intervista su Sole 24 Ore, l'abbiamo letta tutti quanti, però giustamente, ma non per difendere Deborah Rosciani, chiede con l'evoluzione che ha continuamente Monte dei Paschi, chiedere se siate alla ricerca di un socio oppure quello che ha detto Viola lo escludeva, continua a escluderlo anche lei, non mi sembra, cioè non è che uno può rispondere ma non ha letto la mia intervista di una settimana fa, ho capito, cambia tutto sul Monte dei Paschi, su adesso sempre questo atteggiamento, voglio dire, no, lei giustamente ha preso 30 milioni di euro quando è uscito da Unicredit, giustamente, nel senso che evidentemente era l'accordo fatto, visto che parliamo di bonus in questo periodo, è al Monte dei Paschi, avete trovato una situazione di un certo tipo, però no, un po' più di... è cambiato il mondo, c'è i grandi banchieri che facevano le grandi strategie, no? La banca universale, vogliamo parlare di questo con Profumo, della banca universale in cui tre sedi, Bologna, Torino e Milano, i direttori di centrale che di filiale che giravano come trottole e poi vi siete dimenticati del territorio in Unicredit, tant'è che adesso è tutto un ripensamento, torniamo alla banca del territorio, no, la banca universale, cioè insomma un po' più di modestia delle volte, no? Non è che le ha chiesto siete in disaccordo, c'è un disaccordo, uno poi dice guarda l'avevo già detto, glielo confermo, non le consiglio di rileggere sull'intervista. Allora io consiglio a Profumo di rileggersi le interviste che ha lasciato nel 2006, nel 2005, nel 2004, quando diceva che l'unico futuro per la banca era quello di essere universale e appunto divisionale. È stato un fallimento, anche Unicredit sta tornando alla banca del territorio, come ci ha spiegato Ghizzoni e Nicastro più volte. Allora, se non dovessi sempre far fede alle interviste, non la finiamo più. Basta, meteo, pubblicità, brava Deborah Rosciani che gli ha fatto la domanda, e ci stava tutta, e poi la borsa. :17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi avete fatto notare che ho commesso un errore nel parlare di Profumo, avete ragione, nel senso che quello che prese come buona uscita per andarsene dall'Unicredit non furono 30 milioni di euro, quelli li prese Matteo Arpe per uscire da Capitali, furono 42 milioni di euro, chiedo scusa per l'errore. Se mi giro e faccio riascoltare la domanda di Deborah Rosciani e la risposta, perché forse anche fare un po' di corsi di comunicazione col mondo che sta cambiando, con la banca in ginocchio, con i... Vabbè, parliamo di cose che riguardano tutti e non diciamo dell'alta finanza, alta, fisicamente alta, comunque. Il crollo dei consumi lo raccontiamo da mesi, ma qui siamo di fronte anche a un crollo dei saldi. Oggi è uscito il dato, perché dopo un weekend interessante, quello dell'Epifania, che aveva ridato un po' di entusiasmo, adesso i commercianti, nel caso specifico il mondo della moda, che è quello più coinvolto dei saldi, lo sappiamo tutti, ha fatto il consuntivo e ha notato un meno 9,7% in un mese dall'inizio dei saldi. Vorrei capire, tra l'altro il meno 10%, già l'anno scorso fu un meno 6,5% nei saldi, vorrei capire se invece poi al di là di questo dato aggregato c'è qualche differenza con il segretario generale della Federazione Moda Italia di Confcommercio Massimo Torti, che ha diffuso oggi il dato. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ci dica se c'è qualche differenza tra grandi città e provincia, oppure i saldi sono andati male dappertutto, e se è il dato peggiore sui saldi. Guardi, innanzitutto dobbiamo dire che sono dati in linea con un mercato che soffre, quindi soffre un po' dappertutto e un po' per tutte le merceologie. Venendo ai saldi del settore moda, quindi giustamente quando si parla di saldi si parla di abbigliamento, articoli sportivi, pelletterie, accessori e quant'altro, che riguarda il mondo della moda, diciamo che noi abbiamo rilevato un meno 9,27%, e questa è una media perché è fatta dalle vie della moda, delle grandi città turistiche come Roma, Milano, Firenze, Venezia, che hanno avuto passaggio positivo dei saldi e quindi hanno visto soprattutto grazie ai turisti russi, cinesi ed orientali, hanno visto i loro budget crescere, mentre i centri e soprattutto le vie meno commerciali delle grandi città, ma anche e soprattutto dei piccoli comuni, per non parlare delle periferie, abbiamo visto una discesa un calo dei saldi, del valore dei saldi, e quindi per i nostri negozi abbiamo registrato anche in questi ambiti, soprattutto nelle periferie, anche abbiamo raggiunto delle picchi del meno 30%. Meno quindi, 30% dei saldi. Nelle periferie. Ma anche da voi si conferma una difficoltà maggiore rispetto a già una difficoltà complessiva del nostro sud? Guardi, ecco, il sud in realtà è quello che ha sofferto di più, sta soffrendo di più da un po' di tempo, sud e isole, e praticamente il nord, il nord-ovest, ma anche il nord-est stanno tentando di reagire. Speriamo che sia anche una spirale positiva questa, cioè anche un innesco di fiducia nei confronti dei consumatori. Ci tengo a precisare che siamo di fronte ad una situazione ovviamente che non è paragonabile a tempi recenti. Pensi che il reddito disponibile reale, quello pro capite per dei cittadini italiani, è tornato a livelli di 27 anni indietro, quindi è tornato ai livelli del 1986. E i consumi reali pro capite sono tornati a 15 anni indietro, quindi siamo tornati a livelli di 15 anni fa, quindi con un sentiment, cioè un clima di fiducia che noi facciamo registrare attraverso uno studio che abbiamo commissionato da Assa Ricerche. A febbraio 2013 risulta negativo il clima di fiducia degli italiani per il 60% degli italiani, quindi questi due motori che dovrebbero essere i motori della crescita dei consumi ci fanno capire come stanno andando i consumi e come non è possibile recuperare nel breve tempo. Sì, molti fanno notare che i saldi arrivavano dopo il saldo IMU e quindi probabilmente anche questo ha influito, ma insomma il dato vostro conferma che buona parte della crisi dei consumi, quindi della difficoltà delle famiglie italiane, si sta scaricando, come era purtroppo immaginabile, laddove o non hai bisogno di prima necessità, quindi non il settore alimentare, oppure dove viene percepito meno il valore aggiunto, anche passatemi in termini emozionali, penso all'elettronica da consumo, iPad, iPhone, tablet, scandate. I settori più massacrati sono appunto moda, abbigliamento, calzaturiero e anche l'automotive. A questo punto, con i saldi andati così, vi attendete un 2013 ancora più difficile del 2012? Guardi, allora, sicuramente non partiamo col piede giusto, anche perché veniamo da un 2012 in negativo anche a due cifre. Il 2013 però insomma può essere condizionato innanzitutto da una imprescindibile crescita della domanda interna, quindi questo è la condizio sine qua non. Poi ci deve essere un rinnovato rapporto di collaborazione con i fornitori, perché non è possibile che i fornitori non tengano conto, perché il mercato è lo stesso e quindi non tengano conto di questo fattore, e d'altra parte anche noi dobbiamo sperare e auspichiamo in un indispensabile mutato atteggiamento. Prima si parlava delle banche da parte dei nostri piccoli imprenditori, che però sono tanti e hanno una capacità imprenditoriale che deriva da tempo e di esperienza, e soprattutto hanno un'intraprendenza imprenditoriale, cosa che è tipica della nostra Italia. Italia, soprattutto dei negozi multimarca che noi rappresentiamo. Noi auspichiamo che, date queste premesse, il sistema bancario possa rilanciare gli approvvigionamenti per le prossime stagioni e quindi anche tirare su quel clima di fiducia che possa auspicare in una inversione di tendenza, anche se a breve, per ovvie ragioni non possiamo pensare che possa avvenire. Ci risentiamo verso Natale, mi sa. Ieri. Mi dispiace per lei, ma stante le previsioni, mi sa che fino all'ultimo trimestre dell'anno non è prevista nessuna inversione di tendenza, prima o poi che poi si trasferisca ai consumi, vediamo, ma insomma, io intanto le auguro bocca al lupo a lei, al settore chiaramente della moda, forse anche buona Pasqua a questo punto. Buona estate. Guardi, soprattutto dobbiamo concludere i saldi e speriamo anche qui, speriamo, siccome i capi sono di eccezionale qualità, i prezzi sono di eccezionale attrattività, speriamo anche questo. Cosa doveva dirmi? Che i capi fanno schifo e i prezzi sono alti? No. Vabbè, è ovvio, però il problema non è quello, guardi, il problema sono il potere d'acquisto delle famiglie. Voi avete ragione, ci sono sconti, come anche il mondo dell'abbigliamento ha fermato i prezzi, però quando poi tu continua ad avere consumi in calo, puoi abbassare i prezzi quanto vuoi, ma se uno non vuole comprarsi una nuova giacca, un nuovo pantalone, perché già quelli vecchi, è chiaro che li va a tagliare. Mi dispiace moltissimo per il settore. Comunque grazie al segretario generale della Federazione Moda Italia Massimo Torti. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. A questo punto anche buona estate, gliela posso dire buona estate, così ci risentiamo. Per me è sempre un piacere, ci sentiamo quanto prima, magari con novità. Quando vediamo. Ma io spero che lei mi chiami prima, ma temo che ci risentiremo settembre-ottobre, ma mi auguro di no. Traffico e poi la borsa. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa. Giornata debole oggi, -0,20 a Francoforte, invariata a Parigi, Londra +0,16, l'America perde lo 0,13, Milano ha perso lo 0,61%. Partiamo dal peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Telecom Italia, -3,5%, ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Facciamo così, facciamo Telecom da un lato e Popolare di Milano dall'altro, che invece ha chiuso con un +4,34%. Telecom perde il 3,5%, si riavvicina dunque ai minimi che aveva toccato lo scorso luglio, ma ricordiamo che già la settimana scorsa aveva perso parecchio terreno dopo la diffusione del bilancio, cioè dei conti preliminari del 2012 e di un piano triennale che ha lasciato certamente perplesso il mercato, in particolare per le previsioni sull'indebitamento che a fine di quest'anno dovrebbe essere sotto i 27 miliardi, considerate un po' deludenti e un po' troppo generiche. In più su Telecom pesa il taglio della CED, che praticamente è ridotta del 50% rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda la Banca Popolare di Milano invece +4,3%, la migliore delle blue chip di Piazza Affari, qui invece pesano le voci sempre più insistenti di una riforma della governance che potrebbe portare a una trasformazione in SPA e quindi con essa un'agevolazione a un risico che poi potrebbe portare a una fusione con altri popolari e quindi magari al raggiungimento di importanti efficienze. Ancora invece per quello che riguarda le banche, dall'altro lato bene anche Mediobanca +2,60, Popolare Emilia Romagna +2,5, Banco Popolare +0,70%. Oggi sono andate bene in tutta Europa le utilities, a Milano A2A +3,50 e anche Terna comunque +0,40. In tutta Europa, basta guardare un po' i principali listini continentali, anche a Parigi Gas de France ed EF hanno segnato rialzi superiori al punto percentuale, quindi anche a Milano diciamo i principali produttori elettrici oppure Terna, che appunto a cui fa capo la rete di trasmissione nazionale, hanno messo a segno dei buoni rialzi, anche Enel è sopra la parità +0,14 in controtendenza con l'indice. Stanno per uscire i conti preliminari di Eni e Saipem. Oggi il titolo Eni, in realtà Saipem ha fatto -2%, Eni -0,70%. Eh sì, restano sotto i riflettori. Saipem ha registrato un'altra giornata abbastanza nera perché ha perso il 2% su un titolo che, come tutti noi sappiamo, nelle ultime sedute è stato davvero sotto le vendite. Per quanto riguarda Eni, continua comunque, c'è da segnare la parabola discendente, -0,7%. Ultimi due titoli, Edison, che ha fatto sulle risparmio soprattutto +9,96%, E Seat Pagine Gialle che continua a correre, più 11,50%. Sì, Seat nelle ultime due sedute ha praticamente raddoppiato il valore, anche se comunque stiamo parlando di una capitalizzazione attorno ai 40 milioni di euro, quindi bastano pochi movimenti per creare delle performance significative. Comunque in descrizione di stampa nel fine settimana segnalavano un possibile interesse del finanziere egiziano Naguib Sawiris, e quindi anche oggi diciamo le azioni sono salite in scia a queste voci. Per quanto riguarda l'Edison Risparmio invece, venerdì c'è stato il ritorno all'utile del gruppo energetico. Le azioni di risparmio in quanto privilegiate avranno il diritto a un dividendo triplo, poiché negli ultimi due anni la società ha chiuso in perdita e non era stato dato il dividendo, quindi qui certo. È un acquisto legato appunto a questo privilegio. Tra i peggiori Telecom Italia Media sul risparmio meno 7,24%, Ambro Immobiliare meno 4%, Renault meno 3,80%, appunto Telecom sulle ordinarie. Grazie a Ciao Condina. Radio Cori, Sole 24 Ore. Volete proprio risentirlo, il profumo, l'intervista di Deborah Rosciani a Alessandro Profumo? Secondo me, vabbè. Lo ascoltiamo. Adesso poi parte lo speciale, vi ricordo, alle 18, dedicato alle dimissioni del Papa. Di Radio 24 che termina alle 19. Allora, non è tanto il contenuto, è, secondo me, se posso permettermi modestamente, è l'atteggiamento con quello che abbiamo visto fare nel mondo bancario, con gli errori commessi. Tutti sbagliamo, ma errori commessi anche di strategia, di modelli organizzativi della banca, un credito divisionale che poi torna indietro, vuole fare la banca del territorio perché ha capito che la cosa divisionale non funzionava, perché il direttore di filiale che da Aosta poi viene messo a Messina e poi a Pesaro e poi diciamo a Vicenza non conosce il territorio. Allora, su questo faremo una riflessione un giorno, sulle grandi dichiarazioni degli anni scorsi sulla banca divisionale. Questo per dire che uno può fare una dichiarazione e poi cambiarla, è la vita. Lo dico perché sentiamo la domanda che ha fatto Deborah Rosciani al Forex a Bergamo a Alessandro Profumo, presidente attualmente del Monte dei Paschi, e la risposta. La ricerca invece di un socio finanziario forte, lei qualche giorno fa aveva detto di auspicarlo, dottor Viola giorni successivi invece ha detto chiaramente le condizioni di mercato non consentono operazioni di questo tipo. Siete stati cercati da qualcuno? Lei sta parlando con qualcuno? Io le consiglierei di rileggere un'intervista, perché poi alla fine ho parlato credo in modo molto chiaro sul Sole 24 Ore, ho detto esattamente le cose che dice Viola, nel senso che noi auspichiamo, abbiamo nell'orizzonte di piano da realizzare un aumento di capitale da un miliardo. Auspichiamo di avere degli azionisti o un azionista, non sappiamo quanti, che sottoscrivano questo aumento di capitale. Avevo anche detto nell'intervista del Sole 24 Ore che in questo momento è tecnicamente impossibile andare sul mercato, quindi non stiamo cercando. Sì, come le novità di Monte dei Paschi ce ne sono giorno per giorno, così magari immaginavo che potessero esserci dialoghi in corso. Noi tendiamo ad essere piuttosto consistenti con le cose che diciamo, nel senso che diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. A parte il fatto che a ben vedere consistent in inglese vuol dire una cosa, in italiano sarebbe coerenti, perché consistente è parte della materia. Ma detto ciò, uno può anche dire, guardi, no, perché tutto questo essere piccati, visto che insomma, no, non mi sembra che ci sia da essere così arrogance sulla gestione del Monte dei Paschi in questo momento. Cambia tutto di giorno in giorno. Viola noi ci ha detto, beh, lo Stato di per sé stesso non sarebbe un dramma se entrasse, però faremo il possibile per evitarlo. Era giusta la domanda, non c'è da dire si legga al Sole 24 Ore, tutti lo leggiamo, Profumo, Sole 24 Ore, ci lavoriamo, no? E allora rispondete alle domande, spiegateci le cose, pronti anche a cambiare idea, non siamo con l'anello al naso. Da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata, vi lascio al nostro GR, al nostro speciale.